Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Di Irene Zerbini. 8 e 16 minuti questa mattina, buongiorno, buongiorno da Irene Zerbini. Prenderemo in esame le aziende che chiudono di notte, cioè sbaraccano, delocalizzano. Si sono visti in questi giorni in Italia operai che hanno fermato i camion con le mani alle 10 di sera mettendosi di fronte. Ha fatto molta impressione questa notizia della fuga clandestina, o almeno dei tentativi. Si era cominciato con Modena, la Firen di Modena, e poi anche l'Hydronic Lift di Pero. Ma oltre all'Hydronic Lift, sembra che anche alla Dometic di Forlì, secondo quanto hanno riferito i sindacati, nella notte un gruppo di dirigenti aveva tentato di spedire macchinari dagli stabilimenti italiani fuori dall'Italia. Oggi ci sono buone notizie, arrivano da questo fronte. Si è avviato infatti un dialogo con i vertici dell'azienda, in questo caso parliamo della Firem. La Firem di Formigine si trova in provincia di Modena, qualcosa che fa ben sperare, perché dopo che questi vertici avevano dichiarato proprio qui a Radio 24, molti di voi l'hanno sentito ai microfoni di Alessio Maurizi, a casa mia faccio quello che mi pare sostanzialmente, ora invece sembra sia sbucato un piano industriale, dietro l'angolo ci sarà, si salveranno questi posti di lavoro in Italia, ne discuteremo insieme dalle 9. Per segnalarvi che c'è anche un modo di fare impresa che si fonda ancora su alcuni valori consolidati, forse vecchi di fronte a quello che ci ha insegnato la velocità e il cinismo della finanza degli ultimi decenni. Eppure c'è, ci sono questi imprenditori che rimangono in Italia anche quando può sembrare sconveniente puntare sul tessuto produttivo italiano, e hanno anche delle soddisfazioni e conferme che abbiano fatto la scelta giusta. Dalle 9 e per le vostre segnalazioni, impressioni, osservazioni, domande, perché no, il numero di telefono da segnare è l'800 24 00 24. Un altro inno nazionale che apre questa nostra mappa del mattino. In questo mese abbiamo toccato quasi tutti i paesi rappresentati in Italia dall'Associazione Stampa Estera. Ci sono stati degli europei, penso ai croati, ai danesi, ai belgi, ai rumeni, nordamericani come i messicani o gli statunitensi. Siamo andati in Sud America con i giornalisti che ci hanno raccontato di come narrano l'Italia ai lettori o ai radioascoltatori o agli spettatori cileni, brasiliani, argentini. Insomma, è stata una mappa di prospettive, visioni diverse dalle solite e ben note, quelle delle grandi testate anglosassoni che traduciamo e guardiamo con attenzione nelle redazioni italiane. Abbiamo dato voce a diverse nazioni, a diversi sguardi soprattutto. E chiaro, ci sono stati anche loro, gli inglesi, gli statunitensi, ma non solo loro, in questa Visti da Fuori che si concluderà tra due giorni, quando si chiude il ciclo di Spunti di Vista e si torna al palinsesto di Radio 24, anche con novità e inserimenti di programmi nuovi. Non anticipiamo niente, da lunedì vedrete. Oggi dove andiamo? Oggi andiamo in Turchia. Günaydın. Günaydın, buongiorno a tutti, perché chi non conoscesse Günaydın vuol dire buongiorno. Certo, sentire Radio 24 in turco fa un senso in Italia, però comunque molto piacevole, insomma. Dündar Kesapli, la voce che sentite è del corrispondente della televisione nazionale turca, tra l'altro fondatore e presidente dell'Associazione Giornalisti del Mediterraneo. Ci sono consistenti relazioni commerciali tra Italia e Turchia, e di questo parleremo tra pochissimo, così che tu ci narri un po' quello che hai raccontato, quello che hai scritto anche nei tuoi approfondimenti economici, perché Dundar Kesapli scrive anche per un settimanale, ma inevitabilmente a questo punto il discorso con te in quanto rappresentante della Turchia verte sulla posizione del tuo paese. Il ministro turco Ahmet Davutoglu ha incontrato il ministro degli esteri italiani Emma Bonino in questi giorni. Le sue parole sono sui giornali, la sua linea per quel che riguarda un eventuale intervento americano in Siria è emersa chiara e netta. E dunque, secondo la Turchia, è necessario che, come si fece con Srebrenica, anche in caso di mancato benestare da parte delle Nazioni Unite, l'Occidente intervenga. E questa è la posizione del governo. Ma vorrei chiederti, però, Dundara, secondo i giornali turchi o i media in generale, ci sono anche voci diverse. Come titolano i quotidiani dei tuoi connazionali oggi? Guarda, giornali che abbiamo un po' visto stamattina, prima pagina, tanto sono più o meno stessi tutti, ho stesso titoli. In caso di decisione, Turchia è pronto a sostenere e poi utilizzeranno la base di NATO che esiste a sud della Turchia, vicino a Adana, in Girlikie. Quindi più o meno così, poi il ministro Davutoglu adesso in viaggio anche ai Emirati Arabi per questione Siria, probabile che consulterà pure con il suo omologo di questi paesi, come insomma, che è giusto che sia così. Quindi i titoli sono standard che più o meno tutti i giornali, ho Cioè visto uno per uno. la Turchia è pronta per un attacco in Siria, questo è il titolo più Pronto ricorrente. anche a sostenere, perché d'altro canto è un paese attaccato a Turchia frontiere da mesi, da giorni, sta andando avanti questo massacro che poi, come ben sapete, anche molti siriani sono rifugiati in Turchia, quindi in Turchia comunque un grande sostegno a popolazione siriana, ma d'altro canto una situazione non c'è un fine, sta continuando giorno per giorno. Come tu hai sottolineato, è evidente, ma ormai è evidente che intervenga America, Inghilterra e Francia. Presumo che poi bisogna vedere l'Italia, come hai detto tu l'altro giorno, il ministro estero Davutoglu era qui con un incontro con Bonino e tema è caldo, giustamente Egitto e Siria, ma prima linea attualmente Siria. Chiaro. Quindi E la vostra posizione geografica naturalmente rende ancora più preoccupante la situazione. Ora, le parole del ministro turco, riprese anche dai quotidiani italiani, sono piuttosto così tranchant, nel senso che la posizione non è per niente ambigua. Le sue dichiarazioni non sono farcite di quei vedremo, attenderemo, che di solito caratterizzano il linguaggio della democrazia. Deve Assad, ha dichiarato il vostro ministro, provare di essere innocente. Deve far sì che il team di ispettori delle Nazioni Unite che già in Siria lavori senza alcun contrasto. Se nasconderanno, se vieteranno le ispezioni dell'ONU, dunque questa già sarà la prova che Assad è colpevole e la comunità internazionale questo non può tollerarlo. E questa, abbiamo detto, la posizione governativa. Mi chiedevo se nella popolazione turca, i giornali segnalassero una preoccupazione della popolazione, dei civili per un eventuale coinvolgimento del paese nel conflitto. È chiaro che la guerra non porta bene nessuna nazione, perché comunque ogni volta che c'è un terremoto di questo genere è chiaro che verrà influenzata aziende, la società, economie, comunque toccherà un po' a tutti. È chiaro che nessuno civile, nessuna nazione e popolazione vorrebbe vedere una guerra, ma d'altro canto vedere anche giorno per giorno essere massacrato delle bambine, donne innocenti. È chiaro che poi è inaccettabile anche questo, non si può stare lì a guardare quello che accade in Siria e poi vivere frontiere attaccato, e comunque non importante la quale nazione o regione. l'importante qui è quello che fa un regime di Assad. Quindi preoccupazione è chiara che c'è, ma d'altra canto la Turchia è un paese di grandi potenzialità militari e poi membri di Nazioni Unite e anche NATO. Quindi d'altra canto qualcuno deve intervenire, se lasci andare così avanti non so come finirà questo paese, insomma. E chiaramente i grandi quesiti, le grandi domande sono anche sulle conseguenze, l'effetto domino. Non credo che nessuno favorevole a quello che sta succedendo chiaro. In Siria, no? Non so, insomma, io penso. Però bisogna interrompere questa spirale di violenza che invece potrebbe esacerbarsi. Se non ha deciso di interrompere, qualcuno deve fare questi doveri. Questa la posizione turca e del governo e, come ci segnali tu, anche della popolazione. Tu per la TV araba in questi 25 anni in cui sei in Italia, lo ricordo, Nundar Kesapli è cittadino anche italiano, ti sei occupato dei settori, anche e soprattutto dei settori in cui gli italiani investono in Turchia. Qual è la presenza italiana nella tua nazione d'origine? Beh, gli ultimi anni ha aumentato gli investimenti di aziende italiane in Turchia, che insomma circa 1000 aziende attualmente sono in Turchia e sono grosse aziende che fanno parte di questo investitore. Chiaro che perché uno dei motivi perché Turchia è un paese molto potenziale, una forte crescita, ben sappiamo, una altissima PIL, e poi Turchia è anche un ma paese. Ci sono agevolazioni particolari per chi investe in Turchia? Beh sì, questi paesi ci sono, ma ci sono, non so, dei tassi magari per col cane non pagano, oppure molto molto molto di meno in quell'Italia, e poi gli operai, quelli che guadagnano in confronto Italia, molto di meno, e tasse in Italia altissimo, non solo cioè in Italia è forse più alta di tutta Europa, quindi Italia è un paese dove stanno mettendo in ginocchio popolazione e sistemi politici, purtroppo una triste realtà, per cui fuggono tutti da Italia, cercano di fuggire Turchia o un paese vicino lì. Quindi Turchia è anche un paese importante, un ponte e collega con altri paesi di Medio Oriente, Oriente, Asiatiche, perché poi avendo ottimi rapporti il governo turco con molti altri paesi italiani investono, fanno partnership con società turche, e poi per avere un canale preferenziale, apertura verso altri paesi, insomma, giusta anche così, perché certo, l'Italia è un paese, una posizione geografica che consente questo tipo di situazione, piazzamento strategico. Senti, per concludere con una nota lieve, quando ti chiedono come passano l'estate in Italia gli italiani, so che hai scritto e ti sei occupato anche di questo, e dove andare per una visita, i tuoi connazionali turchi, i turisti che vengono, tu che indicazioni dai, cosa consigli? Ma Italia è un paese bellissimo, tutti gli aspetti, lasciando fuori il sistema politico e cultura, storia, Italia è un paese simbolico, tutto il mondo è molto conosciuto, noto, quindi quando si parla di Italia, primi nomi che viene in mente estate, Sardegna, Costa Amalfitana, Capri, Ischia. Quindi so, Sardegna, Costa Amalfitana, Capri, Ischia, Cinque Terre, insomma, Argentario, non so, queste coste sono bellissime, poi in realtà bella anche Puglia, bella Sicilia, insomma, io lo do un po' tutti questi luoghi dove si sta bene. Io sono molto amante di Sicilia, sul costo di Sicilia, bellissimo, Puglia, sono posti. E questi sono i temi e i luoghi che tu hai segnalato nei tuoi pezzi. Grazie per questa tua corrispondenza con noi oggi, Dundar Kesapli. Dundar Kesapli, arrivederci. È il corrispondente della TV nazionale turca TRT, fondatore e presidente dell'Associazione Giornalisti del Mediterraneo. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Non ci siamo mai occupati di musica e tra poco lo faremo. Vi ricordo che dalle 9 parleremo di un festival particolare, cioè un festival dedicato alle imprese che rimangono in Italia accettano la sfida che questo comporta, così per fare un po' da contraltare, da contrasto rispetto a queste chiusure, a volte a sorpresa, questi colpi di mano che hanno colpito tanti lavoratori al ritorno delle ferie. C'è chi si è trovato i lucchetti sui cancelli, c'è chi ha trovato la fabbrica chiusa, c'è chi si è visto dei camion che nottetempo portavano altrove i macchinari, in genere all'estero. Abbiamo sentito anche dal nostro corrispondente turco, anche in Turchia moltissime aziende italiane hanno delocalizzato, un po' per il costo del lavoro e un po' per la posizione strategica verso il Medio Oriente, la funzione quasi da ponte che questa nazione ormai da anni fa, è talmente consolidata la presenza in Turchia che c'è perfino un liceo classico a Istanbul, un liceo classico italiano. Parleremo di tutto questo, ora però i riflettori sono puntati su di lui. Non dire no, non dire no, non dire no, no, non dire no, no. Lo so che ami un altro, ma che ci posso fare? Io sono un disperato, perché ti voglio amare. Beh, non disperiamoci, ci sono segnali di speranza, soprattutto coloro che lo amano, perché è un'icona, una leggenda. Pensate che è uno dei pochi artisti, Lucio Battisti, la cui popolarità non declina neanche nel segmento di giovanissimi, nonostante ormai sia scomparso da anni, dal 1998, per quel che riguarda l'esecuzione dei suoi brani, l'acquisto di CD, i giovanissimi di oggi lo scelgono, lo prediligono quanto i loro genitori, è un record che chissà moltissimi vorrebbero avere. Però attenzione, perché secondo alcuni giudici il comune di Molteno, dove lui ha trascorso parte della sua vita e soprattutto dove è stato celebrato il funerale, anche se in forma privata, dove c'è la tomba, non poteva, non aveva il diritto di celebrarlo fino a poco fa. E poi cosa è successo? Una sentenza ha ribaltato quella che era stata la decisione di primo grado, per cui il festival per celebrare Lucio Battisti in teoria si può fare. Bisogna vedere se c'è ancora la volontà, la voglia, l'energia. È un grande danno probabilmente alla musica, questi continui attacchi e queste continue beghe che si trascinano nei tribunali italiani, anche di fronte a un'autentica volontà di ricordare la memoria di un artista. Ma quando è che un artista poi appartiene veramente al pubblico, un artista scomparso? Quando è di tutto? E di questo oggi discuteremo e per farlo saluto e ringrazio naturalmente per il suo tempo innanzitutto Italo Gnocchi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Italo Gnocchi è il più grande forse collezionista, anzi tolgo il forse Italo se no ti offendi, italiano di Lucio, di Lucio Battisti, ma potremmo scoprire chissà in qualche posto nascosto, in qualche località ignota, qualcuno che ti ha superato in passione e dedizione. E sei un giornalista, ti conosciamo come collega proprio anche qui a Radio 24 e sei stato il curatore di 8 edizioni passate di questo festival che si chiama Un'avventura, le emozioni. Vedo che non c'è nemmeno il nome di Lucio nel titolo del festival, una kermesse organizzata fin dal 2008 dal comune di Molteno, in provincia di Lecco, per chi non lo sapesse. Ma sai, nel 99, quando c'è stata la prima edizione di questo evento, probabilmente avevano sbagliato dei manifestini, hanno usato il nome di Battisti abbinato a delle sponsorizzazioni. E tutto questo non ha fatto piacere alla signora Battisti. E da lì sono cioè agli eredi. Esatto. E da lì sono cominciate le beghe, le diffide verso il comune. Però sai, è una situazione che ho vissuto così un po' distaccato, perché a me interessava esporre del materiale di Battisti, far piacere alla gente, far vedere i dischi, le fotografie e tutte queste cose. Però so che il comune ha avuto parecchi problemi. E infatti chiederemo proprio al sindaco, che oggi è con noi, quanto sia esaurito da questi problemi e quanto sia oggi contento che finalmente questa sentenza sia stata pronunciata in secondo grado dalla Corte d'Appello di Milano a favore del comune di Molteno. Mauro Proserpio, sindaco di Molteno, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie dell'invito. E qui abbiamo una vicenda particolarmente significativa, perché il Tribunale di Milano vi aveva inibito dal continuare a organizzare la manifestazione. La Corte d'Appello ora vi ha permesso di continuare. C'è soddisfazione, ma vedo che c'è anche stanchezza. Siete sicuri di rifare questo festival? Sì, c'è molta soddisfazione per questa sentenza in appello. Però, come giustamente dice lei, c'è anche un po' di rammarico, un po' di stanchezza. Insomma, siamo in un momento difficile, stiamo rielaborando ancora la vittoria. Vittoria che comporta il mancato esborso di 50.000 euro che era stato chiesto a titolo di risarcimento dagli eredi. Insomma, una cifra consistente per un piccolo comune. Quanti abitanti ha Molteno? 3.600 abitanti. 3.600 abitanti. E se qualcuno arrivasse oggi dalle vostre parti, cosa c'è a ricordo di questo pezzo storico, questo elemento, questo tassello che piaccia o meno, non a tutti, certo. Piace, ma è indubbiamente una leggenda, un'icona. Cosa c'è a ricordare Lucio Battisti? Ma purtroppo c'è ben poco. C'è il luogo della sua sepoltura, la sua cappella, il cimitero e basta. E quindi questo festival colmava anche una lacuna dal punto di vista della trasmissione della memoria. Sì, era un modo per ricordare la sua presenza a Molteno. Ora invece avete deciso che farete un referendum addirittura tra i cittadini. Perché dovete ricorrere a questa sorta di consultazione collettiva? Cosa le dicono i suoi concittadini? Sono stanchi di avere Lucio Battisti in zona? Assolutamente, non è stanchezza, noi l'abbiamo accolto come un nostro concittadino, abbiamo rispettato la sua volontà di rimanere intimo con la sua famiglia all'interno del nostro paese, e così è stato per tutti gli anni in cui lui ha vissuto a Molteno, e anche dopo la sua scomparsa abbiamo rispettato sempre la sua volontà di rimanere dalla famiglia, di rimanere da soli, e anche in un momento difficile come quello della scomparsa di un uomo giovanissimo. E il festival era un modo per ricordare la sua presenza, ma dal nostro punto di vista anche in modo bello, non a confini di lucro, ma solo per stare insieme e per cantare le sue canzoni. E questa, che altrove, ovunque nel mondo, sarebbe considerata una fortuna, una risorsa, il poter ospitare la memoria di questa celebrità così amata, no, in Italia ha generato una serie di grane che proprio danno il senso di come un po' si muova tutto il paese, anche in un ambito importantissimo, cioè quello dell'industria culturale, quello dell'industria musicale. Buongiorno a Mario De Luigi. Buongiorno. E lei è direttore, dal 1968, di Musica e Diritto, questa rivista. E questa rivista che si occupa di fotografare, analizzare, cogliere le trasformazioni del mercato musicale italiano, rivolgendosi proprio a 360 gradi agli operatori del settore. In questi 360 gradi sempre più spesso rientra l'ambito del diritto. Sì. E questa vicenda della commemorazione di Lucio Battisti da parte del Comune di Molteno, adesso c'è il via libera della Corte d'Appello, possono celebrare il grande artista, è abbastanza significativa, nel senso che quando qualcuno vuole celebrare la memoria di un artista che poi diventa un patrimonio nazionale e di tutti, dovrebbe essere permesso, se non c'è un fine di sfruttamento, di lucro, diciamo. Ma infatti dovrebbe essere una cosa automatica, se non c'è speculazione. Soprattutto in questo caso specifico mi sembra che la manifestazione non sia intitolata Lucio Battisti, ma abbia un nome semplicemente legato a canzoni di Battisti. Quindi direi che in questo caso è vero che l'argomento non è mai stato esplorato fino in fondo dalla giurisprudenza ed è legato a un discorso di diritto d'immagine più che di diritto d'autore, direi che non ci sono problemi per procedere. Infatti la Corte d'Appello, secondo me, ha emesso una sentenza giusta. Adesso bisogna vedere se gli eredi decideranno davvero di procedere fino alla Cassazione, cosa peraltro abbastanza rischiosa per loro, oppure si fermeranno qui, e in questo caso penso che non ci siano problemi per procedere con la manifestazione. Ma in Italia ci sono premi dedicati ad altri artisti scomparsi, naturalmente? In Italia ci sono tanti premi dedicati ad artisti scomparsi. Direi il progenitore e anche il più importante è il premio Tenco di Sanremo, poi ci sono il premio Ciampi, il premio Bindi, Lauzi, Endrigo, Rino Gaetano e tanti altri. E tutti questi premi sono sempre stati fatti, a volte con, diciamo, in pieno accordo con gli eredi, anzi spesso sono stati gli eredi dell'artista a cercare di promuovere una manifestazione del genere. In altri casi, questo per esempio è il caso del premio Tenco, che è nato a metà degli anni 70, su iniziativa di un floricoltore di Sanremo, e all'inizio è stato guardato con molta diffidenza dagli eredi di Tenco, soprattutto il fratello Valentino era molto scettico proprio perché temeva speculazioni. Poi invece è stato coinvolto nell'evento, ha partecipato a dibattiti, convegni. Quindi la sua diffidenza si è sciolta. Esatto, esatto. Cioè addirittura è diventato uno dei collaboratori. Sì, direi proprio di sì. E questa vicenda di Lucio Battisti, si può trovare questa perplessità anche nei 1000 post che hanno accompagnato questa notizia, dico 1000, probabilmente sono di più. E, in qualche modo solleva questi interrogativi legati da una parte all'amore, alla volontà di celebrazione, ma amore genuino, autentico, dei fan e di chi della musica non solo fa la ragione della sua vita come lei, ma di chi ama la musica e vorrebbe poter partecipare a delle manifestazioni, a dei ricordi, vorrebbe poter in qualche modo usufruire di un'offerta che in Italia dovrebbe essere stimolata, non ostacolata, Mario De Luigi. Quindi qual è il clima? Cosa bisognerebbe fare in Italia per far sì che anche questo, che fa parte dell'industria culturale, fosse un elemento valorizzato? Io credo che gli organizzatori di manifestazioni di questo tipo, se sono in buona fede, se non approfittano del nome di un artista per specularci sopra e se il senso dell'evento è prevalentemente culturale oltre che di aggregazione dei fan, io consiglierei di procedere senza problemi, perché come dicevo prima non esiste una giurisprudenza specifica su questo discorso, ma semplicemente molto spesso rivendicazioni fondate su diciamo pretese di controllo da parte degli eredi, che temono a volte che si utilizzi in modo illecito il nome e l'immagine del proprio congiunto. Spunti di vista. I 1000 aspetti dell'attualità. E questo è un altro brano ed è sempre lui, Lucio Battisti, tutti i diritti alla SIAE sono pagati, quindi state tranquilli, perché c'è poi la grande tematica del diritto d'autore. In questo caso la vicenda di Lucio Battisti e degli eredi di Battisti contro il comune di Molteno poco ha a che fare col diritto d'autore in sé, ma con il timore appunto che l'immagine o il nome dell'artista scomparso possa essere sfruttato per finalità, diciamo, speculative, e quindi queste finalità speculative possano amputare, tagliare i diritti degli eredi su tutta l'attività, le canzoni, i brani di Lucio Battisti. Ora, proprio ieri Gino Paoli, che è anche presidente della SIAE, ha dichiarato che come cittadino lui si batte perché quello del musicista sia considerato a pieno titolo un lavoro, e bisogna sempre di più che le proposte in Italia, sia dal punto di vista del Ministero, in questo caso quello dei beni culturali, sia dal punto di vista delle istituzioni, vadano nella direzione di favorire le attività musicali. E poi si scoprono invece questi ostacoli che scoraggiano spesso gli operatori del settore, perché c'è una giungla di norme, di leggi, di vincoli, di lacci e di laccioli che certo bene non fa alla diffusione della musica. Italo Gnocchi, in che direzione sta andando l'Italia su questo tema? Ma insomma, io più che altro la SIAE non è che sia una cosa molto chiara, sinceramente, ti parlo da ascoltatore, da consulente musicale, quindi lascio a loro questi problemi. Però insomma, in Italia non è che si vendono molti CD o molti dischi, purtroppo, anche perché internet aiuta anche a scaricare parecchio materiale. E quello un po' in tutto il mondo. Certo, un po' anche perché le nostre case discografiche non hanno saputo salvaguardare il loro repertorio, il loro catalogo. Cioè, sarebbe una storia molto lunga. Comunque io non la vedo molto bene. Dal mio punto di vista non la vedo molto bene. Secondo me si vende poca musica. E cos'è che ti lascia perplesso? Cos'è che genera questa tua amarezza in questa constatazione? Tu sei uno dei più grandi consulenti musicali, il più grande collezionista italiano, in questo caso di Lucio Battisti. Quali sono le iniziative che potrebbero invece agevolare l'industria culturale, l'industria musicale soprattutto? Vedi, il fatto di proporre delle mostre su Battisti, degli eventi su Battisti, delle manifestazioni, aiuta anche questo a far conoscere l'artista e invogliare la gente ad acquistare dischi, CD, ok, di quest'artista. Quindi anche questo può aiutare nelle vendite, capisci? Se tu non proponi mai un artista che può essere, che ne so, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Lucio Battisti, De André, molta gente, specialmente i giovani, non conoscono questi artisti, quindi manca anche un po' di cultura. Se tu gli fai conoscere questi artisti, sono invogliati anche a comprare, ad ascoltare musica, capisci? E quindi intraprendere poi sempre le vie legali, le vie dei tribunali da parte degli eredi potrebbe avere addirittura un effetto controproducente. Certo, perché tu non invogli la gente a conoscere l'artista e ad acquistare canzoni che l'artista ha fatto durante la sua carriera. E che è un peccato, perché insomma io ho proposto diverse volte brani anche inediti alla Sony riguardante Battisti, però tutti mettono il problema della signora, sarà d'accordo o non sarà d'accordo, e che è un peccato, perché ci sarebbero delle canzoni, delle cose nascoste negli archivi che farebbero piacere ai fan e agli estimatori sia della musica in generale, in questo caso. Ma che scottano, c'è il timore che poi quando si toccano e con intenti assolutamente divulgatori e certo, di estrema passione, poi in realtà possano generare più problemi che gratitudine, diciamo così. Mario De Luigi, lei che è stato responsabile del Club Tenco e quindi anche del festival che ha celebrato questo cantante, ha sentito le osservazioni dei consulenti musicali? Ho sentito le osservazioni di Gnocchi. Preciso che io sono stato per 25 anni responsabile culturale del Club Tenco e non responsabile artistico. In ogni caso ho seguito le vicende. È chiaro, molto da vicino comunque. Esatto, ma io convengo con le affermazioni di Gnocchi, e soprattutto per ciò che riguarda la necessità di un'educazione musicale che possa partire addirittura dalle scuole elementari, per procedere poi medie, licei, eccetera, per far conoscere tutta la musica, non solo quella che viene insegnata a volte, quindi musica classica, jazz, ma anche la musica popolare, anche la musica leggera, come viene chiamata, o musica extracolta. per far conoscere questo repertorio. Questa è una grossa carenza nel nostro sistema educativo. Inoltre va aggiunto che l'industria musicale in tutti questi anni, e parlo diciamo nell'ultimo mezzo secolo, non è stata capace di valorizzare le proprie risorse, non è stata capace di compattarsi, basti pensare che esistono addirittura 4 associazioni di categoria nell'ambito della discografia, quando ne basterebbe una, e non è stata capace di sensibilizzare le istituzioni, quindi i governo, enti locali e tutto, sulle esigenze dello sviluppo musicale come sviluppo culturale. E quindi io vi sono molto grata perché oggi avete raccontato un po' quelli che sono gli aspetti meno noti delle problematiche legate alla diffusione anche della musica leggera italiana, che è sempre guardata con un certo snobismo dalle istituzioni. Avete parlato delle lacune del sistema educativo. Sì, si insegna molta musica nelle scuole italiane, ma ci si limita in genere alla musica classica. E lei, sindaco di Molteno, Mauro Proserpio, ora, alla luce di questo pronunciamento della Corte d'Appello, temete che possa esserci anche un terzo grado? Ma l'avvocato della famiglia ha già dichiarato che ricorreranno in Cassazione. E quali sono i rischi per voi? Quali sono i rischi per il comune di Molteno, questo comune di 3600 anime così martoriato dalla presenza di Battisti ormai? Ma il rischio è quello di eventualmente di ritornare alla sentenza di primo grado. Tra l'altro aggiungo che la somma di 50.000 euro è già stata versata dal comune agli aventi diritto. Quindi in questa fase devono riconsegnare la cifra a noi. Quindi il rischio è quello di ritornare al primo grado. E se si potrà fare questo festival, inviterete grandi nomi per interpretare il repertorio di Battisti o avete scelto un'altra strada? Guardi, uno degli aspetti su cui dobbiamo ragionare è anche il format dell'evento, dell'eventuale evento. Abbiamo sentito che forse farete suonare ragazzini, bambini. A me piacerebbe, ma è una mia opinione, dobbiamo ancora discuterne col gruppo, discuterne con il paese, perché la ricerca di un format molto costoso e con artisti di grido che comunque hanno un cachet importante non sareste in grado di permetterlo. chiaro, sarebbe molto simpatico e molto significativo invece vedere questi bambini interpretare Battisti. Grazie a tutti voi, ora ci colleghiamo con il notiziario per gli ultimi aggiornamenti e ritorneremo per parlare di impresa. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Can't you hear me when I call? Big Boss Man, can you hear me when I call? Quindi allora, mi senti quando ti chiamo? Questo era un appello che veniva rivolto ai boss, ai padroni nel 1960 in questo brano fra i più celebri di Jimmy Reed, che era un bluesman del Mississippi, e poi l'avrete sentito a volte interpretato da Elvis Presley, Rolling Stone, e sembrava parlasse di un'altra era, di un'altra epoca, quella della contrapposizione netta: da una parte il padrone, dall'altra l'operaio sfruttato. Sembrava ci fossimo inseriti invece in un'era di cooperazione, di dialogo, e poi ogni tanto ci sono così dei risvegli, ci sono degli episodi che fanno pensare che la storia si ripeta. Ancora buongiorno da Irene Zerbini. Oggi parleremo dei lavoratori che tornano dalle ferie per trovare la fabbrica chiusa, proprio così, e se non addirittura smantellata e delocalizzata durante la notte. C'è anche la possibilità di fare impresa in modo diverso. Ci sono anche delle aziende che invece investono, a volte scommettono, a volte perdono, ma pur di rimanere, pur di salvare i posti di lavoro in Italia, in qualche modo vanno contro tendenza. Noi partiamo dalla Firen di Modena e salutiamo, ringraziamo per il suo tempo naturalmente Cesare Pizzolla. Buongiorno, benvenuto. buongiorno anche a voi. Cesare Pizzolla è uno dei protagonisti delle negoziazioni di questi giorni, è il segretario della FIOM CGIL. Dunque, ieri avete incontrato la cittadinanza e questa mattina abbiamo dato notizia di un pochino un cambio di tendenza, cioè dalla disperazione dei primi giorni, quando avete bloccato i camion di notte, camion che stavano spostando i macchinari verso la Polonia, ora sembra che si sia avviato il dialogo anche con la proprietà. C'è la possibilità di salvare questi posti di lavoro? Il protocollo firmato in comune venerdì sera va in quella direzione, poi chiaramente dalla carta bisogna che poi andiamo a misurare i reali comportamenti che dovranno venire nei prossimi giorni, a partire dall'incontro che sarà fatto il 13 di settembre in regione, dove l'azienda si è impegnata a presentare un piano industriale che al di là che in Polonia continui l'attività, possa permettere anche a Modena di recuperare attività produttive per permettere di ricreare posti di lavoro che si sono persi in quella scellerata decisione che la firma ha preso in agosto. E cerchiamo di contestualizzare anche l'importanza e che ricadute può avere sul tessuto produttivo della vostra zona questa, si spera adesso, evitata, procrastinata chiusura. La FIRAM di Modena, lei ha detto, in realtà si trova a Formigine. A Formigine, sì. Che è un centro con quanti abitanti? Sono una decina di circa 10.000 abitanti. E questa azienda con i suoi 42 dipendenti è considerata una grossa realtà. Sì, il tessuto economico e produttivo di Modena è fatto prevalentemente di aziende di quella entità. Stiamo parlando che, tolte via quelle 10, 15, 20 aziende che sono al di sopra dei 100 dipendenti, diciamo Modena è nata e cresciuta nell'ambito delle piccole e medie imprese, è un'entità di 40-50 dipendenti sicuramente nell'ambito di una media, della media di questa zona, quindi tirare via un'azienda di 50 dipendenti vuol dire tirare via un'azienda che ha comunque un'entità numerica che è al pari di tantissime altre realtà che vivono e sopravvivono all'interno di questo territorio. Ecco, ci sono già le reazioni dei nostri ascoltatori con un messaggio SMS al 349-238-6666, infatti potete dire la vostra oppure chiamando l'800-24-0024. Io fossi un imprenditore, sottolinea qualcuno, convocherei i miei indipendenti per spiegare che il fisco mi sta strozzando con vessazioni altissime, per cui io mi trasferisco all'estero, certo non lo farei di notte, non lo farei di nascosto. E cos'è successo invece esattamente alla fine? Perché voi vi siete accorti, diciamo così, delle intenzioni dell'azienda, non certo con una convocazione, ma è stata la realtà, vi si è presentata sotto la forma di camion. Cos'è successo? Sì, è successo che la sera del 13 di agosto abbiamo ricevuto una telefonata che ci avvertivano che in FIRAM stavano succedendo cose non proprio nella norma. Ci siamo precipitati lì intorno alle 10:30 di sera e ci siamo trovati, come dire, di fronte alla dura realtà di un'azienda che aveva ormai trasferito, smontato tutti gli impianti e l'ultimo camion che stava per uscire, a proposito che Pedroni dichiara che il trasferimento non era fatto di notte, le 10, le 22:30 sono di notte, visto che l'ultimo camion l'abbiamo bloccato a quell'ora lì, e quindi da quel momento i lavoratori si sono impegnati in un presidio costante davanti ai cancelli. Che forse qualche risultato ha ottenuto, perché se da una parte siamo partiti con i vertici aziendali decisamente, come dire, risoluti a portare a termine i propri piani, l'hanno dichiarato anche a questi microfoni, a Radio 24, nel senso hanno detto a casa mia faccio quello che mi pare, più o meno questo è il senso dell'intervento, ora invece avete avviato un dialogo. Certo, penso che quello che abbiamo fatto sia ancora nei fatti, al di là di essere riusciti a portare a casa l'acconto sugli stipendi, non ha ancora prodotto dei fatti reali, sicuramente ha aperto un canale di dialogo che tutti quanti ci auguriamo possa permettere di trovare nell'ambito della discussione che faremo in regione a partire dal 13 settembre una possibilità di accordo che possa permettere all'impresa di continuare a lavorare sul territorio modenese e ai lavoratori di riacquistare quel posto di lavoro che oggi sembra definitivamente perso. Ma quindi il vostro augurio è che non si proceda con la delocalizzazione in Polonia? Io non metto in contrapposizione, non metterò mai in contrapposizione lavoratori e lavoratori. Io penso che noi dobbiamo fare in modo, arrivato a questo punto, che le due cose possano coesistere. Quindi se ci sarà bisogno di fare anche una valutazione sulle tipologie di prodotto, di capire quali sono i prodotti che possono essere prodotti perché sono più basso contenuto di valore aggiunto in Polonia, ma dall'altra parte ragionare su quali sono le produzioni a un po' più alto valore aggiunto che possono invece essere. Ecco, cosa produce la FIRM? La FIRM produce resistenze elettriche prettamente per il settore elettrodomestico. Quindi anche componenti per ascensori, componenti meccaniche? Ma loro le resistenze elettriche vanno un po' dappertutto, diciamo che loro si sono focalizzati sugli elettrodomestici maggiormente. Se la Polonia riesce a stare in piedi, dunque tanto meglio, c'è la possibilità che coesistano queste due realtà. Staremo a vedere. Intanto comunque rimanere in Italia è una sfida, secondo molti imprenditori, sfida che alcuni non hanno nessuna intenzione di giocare e che invece molti altri trovano intriganti. Ci spostiamo di poco perché rimaniamo in Emilia-Romagna, tra l'altro una regione considerata virtuosa perché anche nella classifica della competitività, pensate, le regioni italiane sono tutte fuori dalla top 100, quelle delle più competitive d'Europa. Anche la Lombardia ha perso terreno, questo secondo l'indice di competitività regionale pubblicato dalla Commissione dell'Unione Europea. Quindi perfino la Lombardia è scivolata al 128esimo posto. Ebbene, l'Emilia-Romagna, anche per un aspetto decisamente cruciale, quale quello dell'utilizzazione dei fondi europei, è la regione che li spende meglio, che li sa richiedere, che li sa valorizzare, che li sa far diventare poi risorsa sul territorio. Diciamo che se tutte le regioni, per semplificare, agissero come l'Emilia-Romagna, avremmo un 20 miliardi in più, una sorta di mini finanziaria in Italia a disposizione ogni anno. Quindi rimaniamo in Emilia-Romagna per andare a guardare e a vedere un altro aspetto. Ci sarà un festival, infatti, che di solito è dedicato a ben altro, che quest'anno sarà dedicato alle imprese, a Novellara. Con noi c'è il sindaco Raul Dauli, buongiorno, benvenuto. Ah, buongiorno, buongiorno. E farete questo festival dal 19 al 21 settembre che si intitola Fondata sul lavoro. C'è il punto di domanda dopo lavoro? Un punto di domanda rosso, per metterlo in evidenza. Richiama l'articolo primo della Costituzione degli italiani. È un festival che è la sesta edizione e che ogni anno si interroga su delle parole chiave che la società vive, che i sistemi locali devono affrontare e crediamo che quest'anno la parola chiave sia proprio quella del lavoro, che vuol dire chiamare a raccolta intorno a un tavolo la classe dirigente locale, gli imprenditori, il cooperativismo, le associazioni del no profit, per rigenerare una riflessione, un programma, un progetto, perché crediamo molto nell'Italia, nel nostro paese, nella nostra tradizione e pensiamo di essere molto competitivi sul piano globale, ma per questo dobbiamo fare sistema e dobbiamo fare territorio. Questo vuole affrontare il nostro dibattito, la nostra riflessione, i nostri laboratori che dal 19 al 22 di settembre animeranno la provincia di Reggio Emilia sulla piazza di Novellara. Con molto competitivi a livello globale, pure quando si parla di impresa le parole che si associano immediatamente sono difficoltà, eccesso di tassazione, costo del lavoro eccessivo, chiusure. Cos'è che le fa credere che ancora si possa essere competitivi a livello globale quando ci sono questi pesi che gravano un po' sulla voglia di operare e di fare di tutti? Ma certamente il senso di responsabilità deve partire da un'autocritica, dal pesare tutta la gravità della situazione, però oggi è anche l'anniversario, il 28 agosto, del discorso I Have a Dream di Martin Luther King, no? Sì, sì, è stato celebrato tutta la settimana prima, invece oggi non ne abbiamo fatto menzione. Esatto, e credo che ci siano, questo è un buon punto di partenza, cioè comunque se guardiamo il bicchiere mezzo pieno, noi abbiamo ancora molte imprese che sono leader nella ricerca, in alcuni prodotti, e io sono fatto 2 settimane in Francia, vedo come tutti all'estero si travestono da italiani, basta mettere un cognome italiano su un negozio di scarpe, su un artigianato che suscita fiducia, qualità. Noi dobbiamo ripartire da un Made in Italy orgoglioso, abbiamo un'Italia incredibile, da ogni parte dove ti giri ci sono delle risorse culturali, artistiche, dei giovani con un talento, con della creatività, però tutti questi sono dei singoli in ordine sparso. Il compito della politica, il compito della classe dirigente è creare un progetto, mettere in rete, saper innovare. I campi sono tantissimi, anche quello delle costruzioni, mi viene in mente che adesso sono dei momenti di maggiore sofferenza. Noi abbiamo avuto il terremoto, cosa vuol dire affrontare il consolidamento antisismico, la ricerca dei nuovi materiali? Io credo che l'Italia possa rappresentare, proprio perché ha un patrimonio storico di borghi, di città, di centri d'arte, un campo di ricerca, la pedagogia. Noi a Novellara abbiamo innovato dal punto di vista del multilinguismo, abbiamo 50% di bambini lingua madre diversa nelle classi, stiamo fondando una nuova pedagogia del multilinguismo, della multiculturalità. Oggi stare nella globalizzazione vuol dire partire dalle nostre tradizioni, da un artigianato, da una cooperazione, saperlo rinnovare. Per questo siamo fiduciosi. Sentiamo dire questo, che c'è, cioè, questo, c'è tanto ottimismo nelle parole che lei ha pronunciato. Sentiamo invece se i nostri ascoltatori condividono questa lettura che lei ci ha dato. All'800 24 00 24 avrete la possibilità da questo momento di chiamare. E diamo la parola anche ad altri imprenditori, anche a imprenditori che hanno puntato non solo sull'Italia, ma su giovanissimi colleghi che sono andati oltre i confini della propria azienda, addirittura per investire su altri. Enrico Castellano, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Enrico Castellano ha fatto tantissimo insomma, è difficile adesso anche riassumere tutta la fatica che lei ha speso per realizzare diverse imprese, perché ne ha create più di una. Sicuramente l'ultima, la più grande, questa dimora storica di grandissima bellezza in un centro storico tutto da sviluppare sul piano turistico a Fossano, è molto caratteristica, è molto indicativa. Lei ha sentito la storia della Firem di Modena, se ne sarebbe andato? Nel senso, ha creato questo grande albergo? Nei panni degli altri, quello che posso dire è non me ne sarei andato in quel modo, quindi la mia riflessione... Il suo palazzo non lo può spostare, nel senso... No, esatto, a parte che io non potrei farlo, no? Però a parte che se uno investe, ho sentito il sindaco che parlava giustamente del fatto che il mondo ha fame di Italia, e quindi molte volte se noi vogliamo valorizzare veramente le nostre competenze, i nostri asset, alla fine facciamo imprese che è difficile spostare, quindi diciamo, teniamo anche conto che Made in Italy deve come minimo essere pensato in Italia, se non costruito in Italia, e quindi una base, la base a più alto valore aggiunto alla fine è italiana. Ecco, però poi magari parliamo di queste cose. Tornando al caso da cui siamo partiti, la riflessione è che da un lato ci sono dei modi per fare le cose, dall'altro però non dobbiamo pensare, cioè, alla fine un'impresa ha il dovere di fare le scelte che permettono di meglio valorizzare le proprie competenze, i propri talenti, ma anche il proprio capitale. Diceva Einaudi che il dovere dei capitali è andare dove possono essere meglio valorizzati, non diritto, dovere, no? Quindi io penso che sulla delocalizzazione si fa anche tanta demagogia. La soluzione non è bloccare queste cose, la soluzione è l'innovazione, come giustamente diceva il sindaco, io che mi occupo anche di, poi magari ne parleremo, mi occupo anche di finanziamento all'innovazione, cioè finanziamento alle start-up innovative, so che per esempio negli Stati Uniti sta cambiando un fenomeno che è quello dell'offshoring, cioè del trasferimento delle produzioni all'estero, e sta nascendo il reshoring, termine borborioso, figlio proprio dell'innovazione, del nuovo modo di fare, cioè, che non significa? Solo impresa, ma che significa questo neologismo qua? Cosa vuol significa dire? Significa che di fronte alle possibilità di produzione che nascono dall'innovazione tecnologica, che non è solo più innovazione digitale, ma è proprio l'open source anche nel manufacturing, sono le stampanti digitali, sono la possibilità di fare un nuovo artigianato evoluto tecnologicamente, eccetera. Molte produzioni tornano ad essere efficienti anche nei paesi industriali tradizionali ad alto costo del lavoro, e la competenza, la possibilità di fare rete delle competenze, cioè, diventa un fattore, diventa fondamentale, un più, fattore, importante più importante rispetto, certo, al salario minimo, diciamo, sub-ottimizzazione del costo del lavoro. Quindi il vero discorso è il cambiamento, l'innovazione, creare cose nuove, più cercare di preservare. Questa è la via d'uscita, secondo Enrico Castellano. Secondo voi, buongiorno, pronto, Sergio? Sì, buongiorno. Dica. Io ho ascoltato le motivazioni che hanno portato l'imprenditore a questo passo terribile, a questa manovra terribile, e purtroppo non ha tutti i torti, perché mi risulta che ha un assenteismo del 15%. Che è una cosa grossissima. E secondo, il suo braccio destro ha rubato del materiale del prodotto finito e ha cercato di venderlo a un cliente dell'azienda. Ma lei di cosa sta parlando? Di Alafirem? Della Firem, sì. Quindi secondo lei... Ho sentito la vostra radio. Sì, sì, sì. Quindi secondo lei sono questi gli elementi che avrebbero influito pesantemente sulla decisione di andarsene? E di andarsene con queste, con queste modalità. Tra l'altro il sindacato ha fatto reintegrare l'operaio, il dipendente che ha rubato il materiale. A me sembra una cosa enorme. Cioè, io sono un dipendente, ho lavorato come dipendente tutta la vita, ma però davanti a queste cose così, così evidenti, cioè, anch'io avrei fatto la stessa cosa. Prevale l'amarezza, lei dice. Grazie. Certo, cioè, non è evidente. Grazie, grazie, grazie mille a Sergio, l'ascoltatore che ci segnalava anche questo aspetto del garantismo eccessivo, come anche altri imprenditori hanno dichiarato una delle pecche del sistema italiano. Cesare Pizzolla, è così? No, adesso io penso che parlare di lavoro e mettere sempre in contrapposizione qualche cosa al lavoro sia veramente fuori luogo. Adesso io prendo ad esempio il sistema Marchionne, che mette in contrapposizione lavoro e diritti, il sistema Riva, che ha messo purtroppo in contrapposizione lavoro e salute, e il sistema, adesso dico, Firem, che mette in contrapposizione la competitività dei lavoratori italiani con quelli polacchi, bisogna che la smettiamo. Io penso che è questa questione dell'assenteismo, cioè l'ascoltatore che ha chiamato faceva riferimento a questioni precise, adesso al di là l'assenteismo è qualcosa che, come posso dire, garantito, cioè, se c'è un problema di salute va garantito attraverso le regole che sono in questo paese, ci sono, come posso dire, le strutture adibite per poter verificare se una persona effettivamente è malata o non è malata. Penso che non posso farlo io, non può farlo neanche l'ascoltatore, a criminalizzare a tutto tondo quelle persone che purtroppo sono a casa malate. Io penso che però la cosa l'ha centrata il sindaco, dicendo che questo paese si rialza su due questioni: quella della competitività sul prodotto, dell'innovazione, della ricerca e sviluppo, in cui probabilmente qualche anno di ritardo ce l'abbiamo in questo paese, e dall'altra parte se riusciamo tutti insieme a far ripartire i consumi interni. E quindi per fare questo abbiamo bisogno che il sistema permetta ai lavoratori e ai cittadini di avere qualche soldo più in tasca per cominciare a ricomprare le cose che fino a ieri compravamo. Cioè, qualcuno si lamenta perché il settore elettrodomestico non va più, e qualcuno non si domanda perché non va più. cioè il cambiare una cucina, il cambiare una lavastoviglie, perché la gente non lo cambia? Non perché non gli serve, non perché non è più innamorata del prodotto made in Italy sugli altri, ma perché non ha i soldi per poter perché fare. Non se lo può permettere. Lei prima accennava la questione, tra l'altro, anche salariale. Da quanto tempo non ricevono lo stipendio i lavoratori? I lavoratori della fiera non ricevono lo stipendio da il mese di luglio sostanzialmente, poi ci sono qua e là alcuni lavoratori per no, alcune vicende che non vorrei parlarne oggi, visto che oggi abbiamo ricreato il clima di dialogo, non vorrei, come posso dire, buttare benzina sul fuoco, vorrei provare a tenere i toni bassi, perché quindi, ho interesse a risolvere la questione, non a creare delle polemiche. Interesse anche dei suoi colleghi che rappresenta, senza dubbio, certo. Sì. I posti di lavoro, non andiamo su polemiche inutili, però diceva c'è questo arretrato di stipendi, ma anche di questo state discutendo. D'altronde abbiamo segnalato un'inversione di tendenza proprio della proprietà. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. I can change the world with my own two hands, make a better place. E dunque cosa si può fare anche in Italia? Chiaro che chi vuole delocalizzare ha tutto il diritto, come ci segnala qualcuno, di farlo. Ha colpito molto la modalità di questi ultimi fatti che sono così arrivati agli onori della cronaca. Non c'è solo la Fiera di Modena che, come avete sentito, invece adesso pare aver avviato un dialogo con i lavoratori, c'è un piano industriale, ma ci sono altre fabbriche che si sono fatte trovare, come dire, coi cancelli chiusi, sono rientrati dalle ferie gli operai, i lavoratori si sono trovati tanto di catene, lucchetti e vicende che allungano in qualche modo la lista di aziende che hanno quasi approfittato dello stop estivo per chiudere i battenti senza informare nessuno. Questa è la modalità nuova. Luca, buongiorno, pronto? Buongiorno. Sì, dica. Io stavo ascoltando la trasmissione e volevo intervenire dicendo questo, che secondo me appunto bisognerebbe pensare, spostare un po' il punto di vista e guardare le cause reali che portano a queste situazioni. Io sono un 51enne disoccupato, sì, da 6 mesi, ho chiuso l'attività per disperazione, avevo un'agenzia immobiliare, e secondo me pensare che c'è gente costretta a scappare da casa sua con dei costi secondo me altissimi, perché spostare un'azienda non è una cosa da ridere, e scappare da casa propria di nascosto come un ladro che sta rubando a qualcuno è una cosa vergognosa che va attribuita a chi ha veramente la responsabilità di questo. Quindi secondo lei dice ha chiuso l'agenzia immobiliare, in che provincia opera lei, scusi, operava? A provincia di Roma, la Vispoli. Provincia di Roma, per disperazione, cioè mancanza… Non c'era più lavoro. Non c'era più mercato. Non c'è più mercato perché le banche negli anni passati hanno fatto una cosa orribile, hanno dato soldi a tutti permettendo a geometri di supervalutare le case, al punto che la gente comprava case senza dare neanche un acconto e si cambiava la macchina. E adesso questa situazione è bloccata perché se la banca vuole riprendere i suoi soldi non prende neanche la metà, perché quando hanno dato soldi di fronte a una supervalutazione non hanno più il riscontro reale di quello che hanno dato rispetto al valore reale dell'immobile, lei dice, sì. Quindi è difficile recuperare. Comunque Luca, grazie per questa segnalazione, per questa sensibilità, naturalmente in bocca al lupo per il suo futuro. Rosa Maria, buongiorno, pronto? Buongiorno signorina, buongiorno. Senta, io faccio un appello specialmente a voi, questo l'avevo fatto anni fa con voi, ma mi avevate cassato, insomma. L'avevano cassato, in che modo? Forse sì, per ragioni di tempo, perché qui non si cassa nessuno, si sente di tutto, no, da questi microfoni. Stamattina invece mi avete dato faccia questo appello, sentiamo. Ecco, pronto. L'appello è questo, che noi siamo una massa, non noi, una massa di ipocriti. Sì, quando perché? È uscito l'euro, quando l'euro è stato stabilito che 1900, ovvero facciamo 2000, cosa hanno fatto tutti i dipendenti e tutti i dipendenti statali e pensionati? Lo Stato e tutte le ditte hanno fatto la divisione, no? Invece fuori, comprese le ditte, le industrie, tutti, cosa hanno fatto? 1000 lire, un euro, che per noi sono 2000 lire. Ma lo capite la catastrofe? Certo. Che è successa su grazie, di voi? Grazie mille a Rosa Maria. Ritorniamo dunque a un'antica diatriba che si scatenò soprattutto dopo l'introduzione dell'euro sulla conversione, sul cambio e su chi ne ha approfittato. Ora però non stiamo parlando esattamente di questo. Buongiorno Riccardo Ruggeri, buongiorno. Buongiorno. Lei ha sentito vari stimoli, lei è un noto manager, ex manager, che però è partito dalla gavetta a differenza di tanti altri e ha scritto un libro anche in cui ha criticato con ferocia, quasi con ironia, l'establishment, diciamo così. Ha sentito ora queste voci arrivate e da chi ci ascolta e da chi fa impresa in Italia o ci prova, e quali sono le sue considerazioni, le responsabilità che oggi sono state date perfino al cambio lira-euro, secondo lei dove risiedono? No, ma anzitutto bisogna sgombrare il campo dal fatto che è avvenuto, dal fatto notturno che è avvenuto, sì. Perché questo è un argomento che, per usare il linguaggio giovanile dell'officina, è quella che noi chiamavamo una bastardata, no? E quindi questo bisogna toglierlo, perché non è oggetto diplomatico lei proprio di discussione, no, non è oggetto di discussione, è chiaro, noi stiamo però è avvenuto e quindi avvenuto, va sottolineato, però è una cosa gravissima e di cui credo, ho letto la sua intervista, sia anche pentito l'imprenditore. Comunque, al di là di questo sembra fatto, di che, sì, che non conta, che dobbiamo toglierlo, il tema è il tema che vive l'Italia e che vivono tutti i paesi occidentali in questo momento, dove da un lato hanno scelto di fare una globalizzazione, abbiamo scelto tutti di fare una globalizzazione probabilmente in tempi troppo stretti, non perché non bisognava farla, ma probabilmente in tempi troppo stretti. E questo ha comportato tutta una serie di problemi. Nello stesso tempo l'establishment, per usare un termine che mi è caro, l'establishment occidentale ha gestito in modo, diciamo, scandaloso i vari paesi, e di conseguenza ci troviamo contemporaneamente in un processo di globalizzazione importante e nello stesso tempo in un momento di crisi economica che colpisce tutti. E questa crisi, secondo lei, è figlia della fatti, globalizzazione? Beh, no, non è che siano i collegamenti. Ah. La crisi è colpa di tanti altri, di tante piccole grandi cose fatte dai vari governi. O non fatte, questi due o non fatti fatte. Messi insieme indubbiamente hanno portato al fatto che ci sono determinate aziende con determinati prodotti, bisogna dire questo, con determinati prodotti che non hanno nessuna possibilità di sopravvivere, in, di Italia, sopravvivere in Italia. Se poi io penso che non sia vero quello che ha detto un ascoltatore, ma che se poi c'è anche un assenteismo del 15% quando quello fisiologico è il 3%, è evidente che siamo di fronte a comportamenti non sanitari, siamo in confronto di comportamenti altrettanto non corretti come quello del datore di lavoro. Ma fatto anche questo, togliendo anche questo aspetto, il problema è che noi da questa soluzione non si esce, perché non è facendo con il buonismo che possiamo risolvere dei problemi che sono di tipo di conto economico, di stato patrimoniale. È un fatto che questo signore qua probabilmente, lui dice, almeno nell'intervista, dice che i suoi concorrenti sono andati tutti in Polonia e in Romania e lui è rimasto qua. È evidente. Sì, che... ma Ruggeri, come ha sentito anche perfino dal sindacalista, cioè il punto non è impedire che si apra o che coesista anche la realtà polacca. Quindi, al di là anche della questione FIREM, lei ha sentito parlare di innovazione, no? Spesso si indica questa strada anche sulla qualità del prodotto. Lei dice che un certo tipo di prodotto non può continuare a essere, come dire, personale. Noi abbiamo fatto in Italia. Come famiglia, sì, abbiamo un'impresa messa su anni fa che nel campo della moda di avanguardia, e a noi non passerebbe neanche per l'anticamera del cervello di andare via dall'Italia, anche se dal punto di vista di determinati costi non siamo competitivi, però abbiamo la possibilità di avere un prezzo finale che ci copre. tutto qua. E non andreste via dall'Italia, anche perché solo in Italia potete trovare quella cura della qualità. Qualitativo, eccetera, eccetera. Però se quel signore lì fa dei prodotti che possono essere fatti in qualsiasi altro posto dove il tasso di innovazione è zero o quasi zero, che cosa può fare questo? Cioè lei dice se facesse, non so, invece che fare altissima moda come la sua azienda Ruggeri, facesse bottoni per blue jeans, adesso sto citando un elemento a caso, dove non è necessaria la presenza, il controllo qualità assicurato dalla filiera italiana. Esatto, è così. Cioè, chi glielo fa fare? Sentiamo anche. È caso per caso. Ovvio. Oltretutto, immagino che questo signore sia ulteriormente penalizzato, come sono stati penalizzati molti imprenditori italiani, dalla caduta del mercato domestico, come diceva il sindacalista. È chiaro che se il mercato domestico è caduto e il mercato domestico per loro rappresentava, mettiamo il 50%, loro possono esportare finché vogliono, ma il conto economico non sta più in piedi. Sentiamo anche ascoltatori che vogliono rivolgerle una domanda. Nicola, pronto? Buongiorno. Buongiorno, sì. Chiamo da Chieti, sì. Provincia di Chieti, sì. E lavoro nel settore dell'automotive, indotto Fiat. Noi stiamo vivendo negli ultimi anni e si sta ripercuotendo su tutta l'industria metalmeccanica quella che è la politica di Marchionne e della Fiat. C'è una presa di posizione nei confronti dei lavoratori che addirittura fa pensare a 40-50 anni fa. E questo secondo me è uno dei motivi per cui l'Italia non riesce ad uscire da questo baratro dove si è infilato. Mettere davanti al lavoro la rinuncia dei diritti è la cosa più sbagliata che secondo me si possa fare oggi. Lei lavora nel settore dell'automotive, cioè esattamente, sia più preciso. Indotto Fiat. Quindi componentistica? Sì. Abbiamo impianti vecchi, l'impresa per cui lavoro io è una SPA che ha aziende in varie parti del mondo, in Europa e nel mondo pure, però l'innovazione non esiste, noi abbiamo impianti di 70-80 anni fa rigenerati e questa è l'imprenditoria che conosco io italiana. Dal suo osservatorio in provincia di Chieti, mi diceva lavoriamo Nicola. Per Sevel, siamo clienti Sevel, cioè il nostro cliente è Sevel e si va avanti a raccomandazioni, a mazzette per poter essere competitivi, per restare nel settore. Questa grazie. È una cosa grave. Grazie Nicola, uno scenario decisamente a tinte cupe quello dipinto dal nostro ascoltatore. Ne sentiamo un altro e poi avremo le reazioni. E andiamo invece al nord, a Torino. Buongiorno, c'è Walter. Buongiorno, sì, anche, buongiorno, anche lei nell'indotto Fiat? No, però io sono nel settore commercio e ristorazione. E ha dei punti di contatto con le difficoltà che ha sentito registrano invece le fabbriche? Io le dico una cosa, conosco tanti miei colleghi che se ne vanno via dall'Italia, volentieri. Hanno sempre paura di partire quando vanno in un nuovo paese, come ho fatto io, che vedi tutto un mondo diverso, io parlo dell'Uruguay, che me ne andrò lì. A lei è in procinto di trasferirsi? Sì, io amo l'Italia e mi piange il cuore, però non sono più gli anni 80, dove comunque l'imprenditore, dove le banche ti correvano dietro per farti un fido, dove comunque c'erano tanti soldi, adesso non c'è più nulla, non c'è proprio più nulla. E l'unica cosa che trattiene molti italiani come me è non conoscere l'estero, forse non conoscere qualche lingua, ma dove vai in tutto il mondo, a meno che non vai nel terzo mondo, non so, in Africa, trovi buone possibilità ancora per lavorare, ci vuole solo il coraggio. Secondo me anche qui la TARSU adesso qui a Torino è aumentata del 200%, conosco commercianti che fanno il mio lavoro, pagano su un locale di 100 metri quadrati quasi 7.000 euro di tassa sull'immondizia annuale. Lei pensi solo quanto costa la gestione, che poi comunque oltre ai dipendenti, oltre le tasse, qualsiasi tipo di tasse, non si può più vivere. Quanti dipendenti ha lei, Walter? Ma adesso io non ho più dipendenti, perché questa mia attività l'ho chiusa l'ultima 10 anni fa. Ho cercato di fare di tutto. Ma quindi in questi 10 anni cosa ha fatto? Io avevo studiato come infermiere, ho fatto l'infermiere, faccio ancora l'infermiere. Però anche qui la sanità in Torino ormai sta tagliando dappertutto, non c'è più lavoro. E ha deciso di reinventarsi una vita in Uruguay come ristoratore, come nella sua prima esperienza di attività. Grazie Walter. Tra l'altro quello che emerge, Ruggeri, è anche una situazione molto disomogenea per lo stesso individuo, nel senso che mentre una volta si iniziava in una fabbrica, in una realtà, e si aveva la prospettiva, la speranza, chissà per alcuni l'ambizione di continuare fino al termine in quella realtà, ormai quel che è certo è la frammentazione delle carriere, emerge da tutte le testimonianze che arrivano anche via SMS. Poi ha sentito un po' in risposta a quello che diceva lei, questi sono gli imprenditori, ci segnalavano da Chieti, innovazione poca, abbiamo macchinari degli anni 50-60 e viviamo così, quasi sopravvivendo. Fa un po' tristezza sentire questo tipo di spirito. Personalmente mi fa molta tristezza, essendo io uno che è vissuto per 45 anni nell'automobile, però la situazione è esattamente questa, ovviamente non è questa la sede, ci vorrebbe, non dico una trasmissione, ma molte trasmissioni per mettere insieme questo enorme asset che aveva l'Italia e che ha tuttora l'Italia, che è la componentistica, dove siamo tra i migliori al mondo, che però il giorno che le automobili non si fanno più, non ci sono nuovi modelli o altro, questo è un altro settore che è destinato ad avere una vita grama. Anche qui bisogna avere, è sufficiente andare a leggere i libri che raccontano che cosa ha fatto la signora Thatcher negli anni 60 di fronte, alla fine degli anni 60-70. Di fronte a argomenti simili, e si vede che le soluzioni esistono. Certo, sono soluzioni drammatiche. Quando uno è colpito da un tumore, evidentemente non c'è altro modo che toglierlo con molto dolore. Grazie a Riccardo. Prego. Ruggeri, un ex operaio che si è fatto manager e che ha avuto una storia anche personale che l'ha portato così a essere molto critico su quello che oggi è il sistema. Attenzione però, oltre alla critica c'è anche chi dice si può fare, e questo è un po' lo spirito del festival che avete sentito, la Fondata sul Lavoro, questo festival che si terrà proprio nella provincia più, se non produttiva, senza dubbio, che passa gli esami anche dell'Unione Europea per quel che riguarda la competitività. Stiamo parlando dell'Emilia-Romagna. Anche lì una situazione a macchia di leopardo: da una parte aziende che chiudono, lo fanno a volte smontando lo stabilimento di notte, e questo fa notizia, fa un po' meno notizia la delocalizzazione vissuta come una necessità dei tempi. Torneremo anche con esempi completamente diversi, con qualcuno che questo spostamento è riuscito a evitarlo. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E un primo passo è stato fatto, un tassello del puzzle del caso Firem, perché la sede, presso la sede della provincia di Modena, è stata firmata con le parti sociali anche la cassa integrazione. Attenzione, non per cessazione ma per crisi, anche questo fa ben sperare i lavoratori e il sindacato. Seguiremo la vicenda, vi daremo aggiornamenti nei prossimi giorni, avete sentito incontri, ma intanto ci sono coloro che hanno scelto strade completamente differenti. Andrea Bezzecchi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Imprenditori di tutti i calibri e di tutti i settori. Adesso ci stiamo spostando nell'agroalimentare, perché Andrea Bezzecchi è il fondatore dell'adozione, proprio così, dell'adozione dell'aceto balsamico. Lei è una di queste cose che si è inventato per far sì che si potesse salvare il vostro sapere, i vostri dipendenti e la vostra azienda. In cosa consiste questa adozione a distanza dell'aceto balsamico? È stato così una pensata che abbiamo avuto anni fa, quando è stato ora di fare un passo importante per noi, che si trattava infatti di trovare una nuova sede che desse un po' dignità al nostro prodotto. Abbiamo scelto quindi un casale nelle campagne appunto di Novellara, in provincia di Reggio Emilia, e lì avevamo dello spazio a disposizione, allora abbiamo detto come possiamo impiegarlo anche per trasmettere un po' quella che è la nostra passione riguardo al balsamico tradizionale, e abbiamo pensato a questo discorso dell'adozione delle batterie. La batteria, per chi non sapesse, è quella, diciamo, quella serie di botticelle che servono per fare proprio il balsamico tradizionale, di solito sono 5-7, dipende un po'. E quindi quello che abbiamo pensato era il fatto di poter mettere a disposizione il nostro, diciamo così, sapere, quello che stavamo imparando negli anni riguardo al fare. Ma chi le ha adottate queste batterie di aceto balsamico? Soprattutto ci sono state richieste? Sono state, sì, abbiamo fatto, direi che è stato un buon successo, ce ne sono state 10, partendo da persone della provincia, dello stesso comune della provincia, in Lombardia e fino anche negli Stati Uniti, New York, un titolare di un negozio, diciamo, di alimentari. Questi finanziatori, questi genitori adottivi del vostro prodotto, quando vedranno la prima ampolla pronta? Perché è un prodotto che richiede anni e anni di preparazione, il vostro, per essere considerato DOP. Sì, il tradizionale DOP, sia a Reggio che a Modena, prevede minimo 12 anni di invecchiamento. Quindi abbiamo iniziato praticamente nel 2006, quindi insomma abbiamo ancora un po' di anni da aspettare, insomma. E comunque durante gli anni loro possono venire, noi diciamo così hanno uno spazio riservato sul sito dove possono vedere le foto, vedere un po' cosa succede. Seguire il bambino, insomma. Andrea, poi lei tra l'altro è un altro di questi imprenditori che invece che portar fuori, perché ci sono anche all'estero le produzioni di aceto balsamico, ha deciso di andarci lei fuori, cioè ha preso tanto di valigia e se n'è andato a cercarsi i clienti. Cosa ha fatto esattamente? Sì. Ma questo fin da quando avevamo iniziato, quando era la nostra, era comunque una piccolissima realtà, quindi quello che differisce la nostra realtà da altre aziendali, da altre aziende molto importanti, che siamo appunto una piccola azienda di carattere agricolo, il che è molto difficile solitamente che uno si prenda su e vada via. Io vedevo poche possibilità di, diciamo così, di uno sviluppo che seguisse un po' la nostra filosofia, quindi ho preso la valigia, sono andato e ho fatto, insomma, un po' ogni anno vado via, ogni mese. A settembre riparte, e dove andrà? Quali mercati è riuscito a conquistare? Ma allora, finora siamo posizionati molto bene negli Stati Uniti, buona parte dell'Europa, Londra, il Giappone, adesso stiamo incominciando in Australia, la Cina ovviamente è partita, dopo sono piccolissime produzioni. Ma è stato difficile far capire nella patria dell'hamburger il valore dell'aceto balsamico, di qualcosa che invecchia minimo 12 anni, che ha dei costi, insomma, non certo da fast food. No, le dico che non è assolutamente stato difficile, c'è una grande curiosità, è un mercato molto maturo riguardo questo, perché chiaramente non siamo stati i primi, ci sono state le produzioni, chiamiamole più commerciali, che sono arrivate in massa, così come stanno arrivando dappertutto, e che io non vedo assolutamente con occhio negativo, perché di fatto ci aprono la strada. Dopodiché noi arriviamo e diciamo: guardate che c'è anche il prodotto della tradizione, che in realtà viene fatto in almeno 12 anni, ha queste caratteristiche, e spazio per questi prodotti ci sarà sempre. E quindi lei non guarda con diffidenza, diciamo così, alla concorrenza, anzi dice: meglio che si diffonda l'abitudine a usarlo, e poi noi produrremo e daremo e forniremo il prodotto di più alta qualità. Questa è la strada un po' indicata da diversi imprenditori in questi giorni. Grazie ad Andrea Bezzecchi. E Marco, buongiorno, c'è un ascoltatore che aspetta in linea. Buongiorno, qual è la sua esperienza? Buongiorno, la mia esperienza è questa: io non sono un imprenditore, ma lavorando sugli elaboratori di fascia alta, quelli che vengono chiamati supercomputer, i grandi server, ho fatto un'esperienza di 6 mesi in Germania ed altre esperienze un po' intorno per l'Europa, soprattutto in Francia prima, devo dire. Allora, quello che ho imparato sono un paio di termini, come per esempio Offenbach, cioè in Germania circa 20-22 anni fa hanno fatto un avvicinamento. Consisteva nell'avvicinare le parti meno, diciamo, in una catena come quella della Volkswagen, per esempio, chi sapeva soltanto girare un bullone, gli si sono fatti corsi di informatica, anche corsi di gestione aziendale. Chi non la vedeva neanche, la catena di montaggio, perché non la vedeva, gli si sono fatti corsi di informatica e corsi di, per quella parte che riguarda, ci sono alcune parti delle macchine che vengono rigenerate, sostanzialmente gli si è riavvicinati alla produzione, alla catena di produzione. Questo avvicinamento è stato fatto anche negli stipendi, più di 20 anni fa. Allo stessa maniera c'è l'Eisengewerkschaft, cioè un unico sindacato. Quando si fermano i lavoratori in Germania si fermano cifre di 6, 7, 9 milioni di persone. Quello che voglio dire è che una volta noi avevamo imprenditori come Gianni Agnelli, al di là della qualità Fiat, perché puoi anche chiedere a un operaio di stringere 1 milione di bulloni, ma se la tua macchina non va, non venderà. Ma almeno diceva una frase: se all'operaio non gli dà i soldi, chi le compra le macchine? E ritorniamo al tema del consumo interno. È molto interessante invece questa sua esperienza e questo modello di produzione che lei ci ha illustrato con l'avvicinamento, ci ha dato anche la terminologia per trasmettere una cultura di impresa completamente diversa da quella che troviamo in molte grandi aziende italiane. Grazie a Marco, che ci ha chiamato da Roma per condividere alcuni dei suggerimenti. Filippo da Ravenna, velocemente, pronto, buongiorno. Sì, velocissimo, buongiorno, grazie. Sulla questione della delocalizzazione, sì. Io sono un albergatore, sì. Io non delocalizzo. Non sposta l'albergo. No, sicuramente difficile, no. Sì. Qual è il problema nel nostro settore? Molti dei miei colleghi che magari sono in affitto d'azienda, quindi sono in affitto all'interno delle mura dell'albergo, stanno scegliendo altri paesi, portando con loro un know-how e una formula di accoglienza che è tutta italiana, che ci ha reso famosi nel mondo. Quindi anche questo diventa un problema. Molti alberghi non delocalizzano, ma perdono posti di lavoro, cioè diminuiscono i loro staff, diciamo, lavorativi di gestione degli alberghi. C'è stata, mi sembra, una diminuzione del 7% degli impiegati nelle nostre aziende alberghiere quest'anno, quindi anche nel nostro settore c'è un problema che magari si avverte meno, ma il problema è enorme, ed è il problema della competitività, anche solo nei confronti degli altri paesi europei. Grazie. Il turismo non è assolutamente competitivo. E l'Italia, come avete sentito, grazie a Filippo, naturalmente conta su quest'ottima reputazione, addirittura esporta albergatori. Raul Dauli, in questo festival fondata sul lavoro avrete molto di cui discutere, ma soprattutto modelli da proporre. Quali sono, quali saranno? Il festival parte da alcune parole chiave che sono i giovani, e sono i processi di umanizzazione, cioè noi crediamo, abbiamo avuto l'esperienza di un territorio che dice che non esistono imprese competitive, ma esistono sistemi territoriali competitivi. Oggi le imprese più competitive a livello mondiale hanno fatto due cose, hanno due caratteristiche. Una, al proprio interno non esiste il padrone o l'azionista proprietario e basta, ma c'è un dialogo e una partecipazione tra azionisti di maggioranza, di minoranza, operai, processi di formazione, cioè l'operaio si sente partecipe, si sente. L'anno scorso al festival abbiamo celebrato l'Ivetti, cioè siamo dentro un'impronta di un'impresa che sa stare nella globalizzazione e se non conta l'assenteismo, ma guarda a come coinvolgere in modo partecipativo i propri lavoratori, dando pari dignità, dando capacità di qualità a tutti. Quindi dei processi interni di crescita e di qualità che coinvolgono la creatività dei giovani e sappiano aprire delle esperienze territoriali. Il secondo elemento che oggi caratterizza i sistemi più competitivi. Velocissimo, Raul, stiamo chiudendo. Sì, è l'osmosi col territorio. L'osmosi col territorio. Non esiste una buona agricoltura senza un buon sistema di raccolta. Grazie, dobbiamo fermarci, ci sarebbe ancora molto da approfondire naturalmente, ma il tempo è arrivato, siamo quasi alle 9, quindi alle 10, scusate, al notiziario. Continua la programmazione di Radio 24.